tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Buongiorno a tutti, amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova. Siamo a una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordo il sito del Circolo Giordano Bruno, www.giordanobrunomi.wordpress.com, con motore di ricerca. E guardare bene anche i link dove trovate una panoramica ateo anticlericale italiana e internazionale. Ricordo anche il calendario anticlericale 2021, ordinabile da info@siciliolibertaria.it. Oggi parliamo contro Papa Ratzinger, i misfatti pedofili della Chiesa, le disgrazie clericali e i detti anticlericali. Iniziamo da Papa Ratzinger, che ricordiamo una bella vignetta del Vernacoliere di qualche anno fa. Ma sei sicuro che quando dice SS intende lo Spirito Santo? Infatti, se noi guardiamo bene gli atteggiamenti e le scelte di Ratzinger, Benedetto XVI, quindi doppia S, Cooperatores Veritatis è il suo motto, con la doppia S. Anagramma di Benedetto XVI è motto e benedice dei SS, vedi, è sempre l'SS. Va in vacanza alle Scombes, con la doppia S, e usa la marca di occhiali Santos SS. Ricordiamo che le SS furono fondate da un bavarese, Himmler, e anche il partito nazista fu fondato in Baviera, la patria di Ratzinger. In questi giorni è morto Gabriele, cameriere segreto di Papa Ratzinger, che fu coinvolto nello scandalo VatiLeaks. È morto a solo 54 anni, probabilmente avvelenato. Sapeva troppe cose. Papa Ratzinger parla con difficoltà, il Signore gli ha tolto la parola, meno male, non è mai troppo tardi, dal giorno del 3 dicembre. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Leggiamo qualche, dal mio libro Piccolo dizionario di terminologia atea, qualche parola. Conformismo chiesastico e cristiano è quello che propone un Cristo spiritualista disossato e irriconoscibile rispetto a certe sue affermazioni che lo renderebbero indubbiamente molto più rivoluzionario di Epicuro, secondo il filosofo Costanzo Preve. Contrabbando vaticanesco, una delle forme di degenerazione affaristica della Santa Sede Vaticana, da Giuseppe Fiori, Vita di Ernesto Rossi. Contraddizioni logiche, ne è piena la Bibbia, specialmente in relazione al presunto diluvio universale, da Renato Testa di Verona. Corruzione pretina porta alla degenerazione del pensiero critico, specie filosofico, e l'antitesi del pensiero libero, soprattutto per le complicità clerico-fasciste. Ricordiamo questo detto anticlericale medievale: io rigetto i preti di Roma, che sono l'anticristo. Lo diceva certo notaio Alberto di Treviso. Dal mio notiziario anticlericale, dal mio calendario anticlericale, 1 dicembre 2019, negato un concerto di Mozart nella Basilica di Santa Croce a Firenze perché era un massone. A questo livello sono i preti. 2 dicembre 1869, pubblicato il decreto Pio IX che condanna a rogo un libro eretico storico. 3 dicembre 1612, monastero di Santa Caterina di Mazzorba a Venezia era ridotto a pubblico bordello. 4 dicembre 1759, il fautore di eretici Giuseppe Lombardini è detenuto nelle carceri dell'Inquisizione di Narni, in provincia di Terni, come risulta da un graffito. Veniamo ai misfatti della Chiesa. E in questi giorni è stato segnalato dal Fatto Quotidiano del 30 novembre, 3 aborigeni violentati da piccoli dai preti pedofili hanno citato il Vaticano. Abbiamo poi questa notizia dalla Polonia. Morto a 97 anni il cardinale Gulbinowicz, che fu riconosciuto colpevole di abusi sessuali, come tutti i preti, quasi tutti, insomma. L'arcivescovo di Sviz: contro di me in TV calunnie. sarebbe stato calunniato da una TV polacca anticlericale, accusato di favoreggiamento e peculato. Poi vedremo. E in questo periodo il Vaticano ha beatificato 127 presunti martiri spagnoli uccisi dai repubblicani durante la guerra civile del 36-39. Ricordiamo la doppiezza dei preti e che non hanno beatificato invece i preti baschi che furono uccisi dai fascisti. E ricordiamo che martire è colui che è inerme, mentre tutti i conventi e le chiese erano piene di armi per i fascisti. E la Chiesa, invece di fare opera di pacificazione fra le varie fazioni politiche, aizzava e benediceva i fascisti. Poi ritorna sempre la solita sindone, clamoroso caso di abuso della credulità popolare, e è uscito questo libro, Nuova luce sulla sindone, storia, scienza, spiritualità, eccetera, in realtà non è altro che una truffa. Abbiamo poi le disgrazie clericali, il virus anticlericale fa strage nel clero, ben 34 preti morti nella seconda ondata, un totale di 158 preti morti, ecco tutte le loro madonne e reliquie non servono. E il titolo di alcuni giornali in questi giorni di norme anti-Covid, l'Europa vieta la messa, il titolo di un noto giornale. Virus anticlericale blocca il Papa a Piazza di Spagna. La cerimonia clericale a Piazza di Spagna, che c'è tutti gli anni per l'Immacolata, quest'anno non si fa. Paritarie, le scuole paritarie, clericali, professori discriminati. Praticamente avrebbero perso una causa in Cassazione, per cui il servizio pre-ruolo non vale per la ricostruzione della carriera di questi professori. Sconfitta dei clericali. Concludiamo la puntata con qualche detto anticlericale dal mio calendario di qualche anno fa. È blasfemia grande quella dei cattolici il dire che il pane si transustanzi in carne. Cristo fu un tristo che se faceva opere triste di sedur popoli poteva molto ben predire di dover essere crocifisso. Frase attribuita al filosofo Giordano Bruno, bruciato vivo il 17 febbraio 1600 a Roma. La Vergine non può aver partorito, bisogna levare la disputa e le entrate agli frati, perché imbranano il mondo e sono tutti asini, sempre Giordano Bruno. Questo stato ecclesiastico è sempre la ruina d'Italia, perché gli ecclesiastici sono ignoranti e non sanno modo di governare gli stati, però periclitano tutto il mondo. Bene, concludiamo la puntata, arrivederci alla prossima puntata del notiziario ateo anticlericale. Per contatti col sottoscritto 331-730-28. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente. Tanta